Strade e motori. Strade e motori. Di Massimo Di Scienza. Amici di Radio 24, ben ritrovati, buona domenica, ultimo numero della nostra trasmissione per il mese di febbraio, una puntata che cade in una data un po' particolare, questa domenica in cui i comuni dell'area della pianura padana, alcuni, non tutti, visto che il provvedimento ha trovato delle resistenze, soprattutto nella provincia di Milano, questi comuni hanno deciso di bloccare il traffico automobilistico per cercare di fare qualcosa, anche di sensibilizzare i cittadini nei confronti dei sempre più elevati livelli di smog da inquinamento di PM10. Nella nostra area. Ovviamente ne parleremo nella puntata di oggi di Strade e Motori, anche oggi ricca di notizie e di approfondimenti. Cercheremo di capire meglio, ad esempio, come funziona il sistema Tutor, che è in funzione su tanti tratti delle nostre autostrade, anche grazie alla segnalazione di un ascoltatore che ci ha scritto al nostro indirizzo email stradeemotori@radio24.it. Parleremo anche dell'ultima nata in casa Hyundai, un SUV molto atteso, ma partiamo dal grande evento di questi giorni, il Salone dell'Auto di Ginevra, che scatta la prossima settimana, il primo appuntamento del 2010 con l'auto in Europa. Apre i battenti giovedì a Ginevra il primo salone europeo di questo 2010, un grande appuntamento, un grande evento attesissimo, anche perché sono giorni molto delicati, molto complicati, in cui si decide probabilmente il futuro a brevissimo termine del mercato dell'auto in Europa e non solo. È per questo che vogliamo dedicare l'apertura della nostra trasmissione di oggi, proprio cercare di capire come si presenta il mondo dell'auto a questo importante appuntamento. È per questo che abbiamo di nuovo con noi, ed è un piacere tornare a salutarlo, Mario Cianflone, responsabile motori del Sole 24 Ore. Buona domenica, Mario. Buona domenica a tutti. Allora, come ci avviciniamo a questo Ginevra 2010? Il mondo dell'auto, insomma, vive momenti, dicevamo, e giorni piuttosto complicati. L'aria che tira non è bellissima, vero Mario? Non è bellissima, ma è molto migliore quella dell'anno scorso. Il 2009 è stato un anno cruciale, un anno storico per l'industria dell'auto, ne è uscita ridisegnata con una geografia differente. E ultimamente c'è stato il caso Toyota, che ha dato un'ulteriore spinta a complicare le cose all'industria dell'auto, però l'industria dell'auto sta reagendo bene. A Salone vedremo molte novità, molte anteprime, sono presenti tutti i costruttori, è l'80° salone, l'industria dell'auto mostra vitalità. Partiamo dalla novità forse più attesa per quanto riguarda il pubblico italiano, perché finalmente vedremo, l'abbiamo fatto soltanto in foto, così un po' noi spioni su internet o sulle riviste specializzate, abbiamo visto qualcosa, abbiamo intravisto qualcosa, l'avete fatto anche voi sulle vostre pagine del Sole. Vedremo finalmente la Giulietta, la nuova Giulietta dell'Alfa Romeo. Che auto sarà, che auto ti aspetti dalla nuova Giulietta, Mario? Io ho avuto anche modo di guidare un prototipo sotto embargo, ve lo racconteremo da giorno a giorno avanti. La vettura è molto interessante, la vettura si doveva chiamare, lo sappiamo, Milano, per questione di opportunità viene chiamata Giulietta. È una compatta sportiva di buon barra ottimo livello. Si deve andare a scontrare con dei mostri sacri tedeschi, e questo è probabilmente il suo punto chiave. La cosa molto interessante della Giulietta, a parte design, stile, motorizzazione interessanti, livello costruttivo e scelta dei materiali inusitati per tipologie di vetture italiane di questo tipo, è la piattaforma. La piattaforma nuova, che chiamano Compact, era chiamata anche C-Evo, è una base sul quale il gruppo Fiat costruirà molte vetture, comprese anche dei SUV. È un pianale modulare, ci permette di assaggiare un po' quelle che saranno le Fiat dei prossimi anni. Un po' la svolta americana di Marchionne passa anche attraverso questo pianale. Passa anche attraverso questo pianale, che è un pianale per medie e medio-grandi, per fare SUV, per fare vetture station wagon che attualmente mancano in gamma, per fare molte cose diminuendo i costi e migliorando l'efficienza per ogni singola piattaforma. Per questo la Giulietta, anche dalle foto che abbiamo visto fino adesso, ha un impatto anche emotivo molto forte, perché è una macchina aggressiva di gusto nettamente italiano. Lo stand sicuramente più atteso, più visto, più seguito, al di là di quello Fiat Alfa Romeo Chrysler, sarà quello dell'Audi, perché l'altra grande stella di questo salone è la nuova Audi A1. La nuova Audi A1 è una delle vetture più interessanti di quest'anno. È una piccola, che si va a scontrare direttamente contro mostri sacri come la Mini, come parzialmente la Mito, è una vettura che già adesso ha un grande riscontro sulla rete. Hanno iniziato con una campagna mediatica facendo leakage di informazioni e il gradimento del pubblico è alto. La vettura è molto attesa, hanno svelato 2 settimane fa, se non vado errato, le foto definitive. Inevitabilmente la macchina è molto Audi, molto piacere, sembra già costruita per piacere. Probabilmente assisteremo a un nuovo fenomeno di moda. Audi deve poi un po' scrollarsi di dosso la fama di non saper fare macchine medio-piccole, no? Deve scrollarsi di dosso questa fama, perché l'Audi A2 di qualche anno fa è stato un flop. La vettura è interessante per avere uno style indiscutibile, manutenzione anche per il fatto che era tutta in alluminio, particolarmente complicata, per andare a cercare un carrozziere in grado di riparare una vettura totalmente in alluminio di quella categoria non era uno scherzo. Il posizionamento di prezzo era inavvicinabile, alla fine la vettura è stata un flop. Qui è diverso, qui hanno fatto leva su design emotivo, e qualità e valore del brand di Audi, che attualmente è molto molto cool. Mario, chiudendo questo nostro ampio excursus sulle novità di Ginevra, passerei al capitolo SUV. Un SUV compatto molto interessante è il nuovo Nissan, il Juke. Il Juke. E questa è la pronuncia giusta? Sì, credo che sia questa. E poi c'è il nuovo Cayenne della Porsche, tutt'altra vettura, però anche questa è interessante. Allora, il Juke è una vettura divertente dal design sbarazzino, spiritoso, che va a coprire questa fascia emergente dei SUV piccoli, quindi vetture per tutti, in ambito urbano, divertenti da guidare, giocosi come design. Fascia di prezzo anche abbastanza abbordabile. Fascia di prezzo abbordabile, quindi un bel giocato su quattro ruote, non privo di una certa utilità, con una forte attenzione ai consumi, quindi alle emissioni. E una vettura un po' più alta, però corta, compatta e dal design decisamente innovativo. Divertente. Può anche non piacere, ma è brioso. La Cayenne è invece un punto importante. Cayenne, tipico mega SUV, insieme alla sorella Touareg, hanno fatto, il gruppo Volkswagen e Porsche, hanno fatto un lavoro di cura dimagrante. Sottrazione, le hanno rese più leggere, 280 kg per la Touareg, più o meno lo stesso peso per la Cayenne in meno, e anche le versioni ibride, quindi maggiore attenzione per l'ambiente e vetture di mole rilevante, ma che cercano di avere una massa inferiore. Il contenimento delle emissioni anche per vetture di fascia alta e grossi SUV passa sicuramente da una progettazione più attenta all'obesità. Allora Mario, noi ci diamo appuntamento alle prossime trasmissioni di Strade Motori per fare un po' un bilancio di Ginevra. A questo punto, insomma, sarà quasi obbligatorio per te accettare il nostro invito, spero con piacere. Ginevra inizia giovedì 4 e poi andrà avanti ancora per una decina di giorni più o meno. Grazie allora a Mario Scianflone, responsabile motori del Sole 24 Ore. Presto Mario. Presto, buongiorno. Lo dicevamo in apertura, una domenica un po' particolare per milioni di persone che vivono nell'area della pianura padana, perché tra mille resistenze l'idea, l'iniziativa di fermare il traffico automobilistico in una zona grandissima del nostro paese sta procedendo, sta andando avanti ancora per un'ora e mezza più o meno. Le auto rimarranno nei box e nei garage. Vogliamo commentare insieme questo, chiamiamolo esperimento, chiamiamolo tentativo, con il condirettore di Quattro Ruote, Carlo Cavicchi, che ci ha raggiunto al telefono. Buona domenica, direttore. Buona domenica a tutti. Buona domenica a piedi anche per lei, immaginiamo, in questo caso. In generale, direttore, è una misura che vi piace questa del blocco delle auto o no? Beh, essere sinceri, no, non perché il tema non sia un tema di grande attualità, è un tema da affrontare nella maniera più seria possibile. Mi piace perché non è molto serio, appunto, come affrontato, perché diciamo, si criminalizza con l'automobile, per cominciare, che non è la prima causa del problema, e soprattutto lo si fa in una maniera troppo demagogica, perché non risolve niente fare questo. Si penalizza la gente che la domenica, il giorno che può stare a casa, lavora tutta la settimana e gli Grazie. Viene colpevolizzata in fondo per aver comprato un mezzo che non si può nemmeno godere dopo averlo pagato e pagarci sopra tutti gli oneri fissi. Quindi l'argomento è un argomento molto importante che non è mai però affrontato nella maniera seria come dovrebbe, cosa che peraltro l'industria automobilistica invece ha fatto, perché i progressi sulle polveri sottili e sull'inquinamento da parte dell'auto negli ultimi 20 anni è stato strepitoso, quello che non è stato fatto per altre cose, il riscaldamento, i mezzi pubblici e compagnia bella. Il 95% delle emissioni è stato ridotto, se non sbaglio, negli ultimi 20 anni. Ma è una cosa clamorosa, con dei costi altissimi. Poi che si possa arrivare a, magari come peraltro l'industria sta cercando di fare, di arrivare in un potenziale 100%, che sarebbe anche doveroso, ma non ci dobbiamo dimenticare che la stessa cosa non è fatta dalle altre parti. Il fatto che a Roma adesso non vogliono più fare le targhe, nemmeno le targhe alterne, perché dicono che è un'operazione fatta sempre solo contro le automobili e non contro il resto, è già un segnale. Si dice però, direttore, che questo tipo di iniziative aumentino la cultura ecologica, la consapevolezza del problema da parte dei cittadini. A questa obiezione lei come risponde? No, è vero, questo il discorso ci sta bene, però ripeto, non ci sta bene nel momento in cui però il criminalizzato diventa soltanto la parte minore o comunque una parte parziale del problema. Del resto non si parla mai, perché il resto si va a toccare le tasche delle amministrazioni provinciali, comunali, promozioni pubbliche, piuttosto che dei mezzi fatiscenti che girano per le strade, appunto per il trasporto pubblico, che inquinano moltissimo e compagnia bella. Questo, siccome i soldi non ci sono, questo non viene toccato e questo non va bene. Tanti sindaci a letto, no? Non hanno aderito a questa iniziativa, soprattutto nella provincia di Milano. Cosa vuol dire, secondo lei, che proprio non c'è una sorta di unitarietà di intenti? È molto difficile per un periodico specializzato come il nostro scindere il grano dall'olio. Il grosso vero problema è che ci sono anche problemi politici che guidano le amministrazioni. È opportuno, no, prima delle elezioni fare queste cose? Certo. E i sindaci che dicono chiudiamo le città, lo fanno perché lo pensano veramente o perché devono mettere qualcosa per fermare i magistrati che si stanno accadendo contro di loro per l'inquinamento? È una lettura che ci trova in una posizione un po' defilata, non ci possiamo mettere a seguire i problemi politici. Il problema, se c'è, bisogna affrontarlo in maniera globale e nemmeno criminalizzando, come tutti stanno facendo, quei poveretti che hanno ancora le vetture Euro 1, Euro 0, Euro 2, che criminalizzandoli perché non cambiano le macchine. Questa è gente che se non cambia la macchina è perché i soldi non ce li ha, se no nessuno tiene una macchina di 15 anni fa e invece di pigliarne una di oggi. È un altro problema che ha sollevato e di cui sicuramente, direttore, torneremo a parlare insieme. Grazie a Carlo Cavicchi, con direttore di Quattro Ruote. Buona domenica a piedi, direttore, ancora a presto. Arrivederci. Strade e motori. Strade e motori. Eccoci di nuovo insieme, seconda parte di Strade e Motori. Adesso tutte le news in pillole degli ultimi giorni, poi parleremo dell'ultima annata in casa Hyundai e di multe con il Tutor. Aumenta, seppur lentamente, la diffusione del car sharing, il noleggio dell'auto condivisa. In Italia attualmente ci sono 15.000 abbonati e 530 vetture destinate a questo servizio. Milano, Roma e Venezia, le città dove viene utilizzato maggiormente. Secondo uno studio realizzato da Frost & Sullivan, entro il 2016 ci saranno circa 2.400 veicoli a disposizione del car sharing, con 110.000 abbonati. È in fase di sperimentazione a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, un sistema high-tech per difendere i posti auto dei disabili da chi li occupa senza averne titolo. È un dispositivo che certifica, attraverso l'impronta digitale, il parcheggio regolare e avvisa la polizia locale se c'è un'occupazione abusiva. Il pass tecnologico si chiama Park Tutor ed è stato brevettato da un'azienda milanese. È entrato in funzione mercoledì scorso a Roma il primo taxi completamente equipaggiato per clienti con disabilità motorie. Lo ha realizzato la Ford per la cooperativa Radio Taxi 3570. Entro l'estate circoleranno per le strade della capitale 20 veicoli attrezzati per portatori di handicap. Le Fiat escono con voti alti dal rapporto Decra 2010 sulle auto usate più affidabili, redatto in collaborazione con la rivista tedesca Automotor und Sport. Nel rapporto elaborato studiando oltre 15 milioni di revisioni effettuate in Germania, prevalgono la Opel Corsa D nella categoria delle piccole e l'Audi A6 nella graduatoria assoluta. E allora è arrivato il momento di dare un'occhiata in casa Hyundai, perché c'è una bella novità, è l'ultimo nato appunto nella casa coreana, il nuovo SUV compatto che si chiama XI35, peraltro sostituisce uno dei pezzi forte della produzione di Hyundai, il notissimo e amatissimo Tucson. Ne parliamo con il Public Relations Manager di Hyundai Italia, la diretta emanazione della casa madre coreana, Carlo Sabatini, che ci ha raggiunto al telefono. Buona domenica, Sabatini. Buona domenica a tutti voi. Dicevamo che Hyundai punta molto su questo SUV compatto. Quali sono i punti di forza dell'XI35? Ma diciamo naturalmente uno splendido design, uno stile unico che lo rende versatile sia nella guidabilità su strada come urbano, anche per qualche escursione 4x4, perché le prestazioni sono notevoli, e l'amplissimo rapporto qualità-prezzo e dei motori in grado di dare una grande versatilità. Per quanto riguarda le misure, che tipo di appunto numeri ci può fornire, Sabatini? Quanto misura questo XI35? Siamo largamente sotto i 4,5 metri, ma è più basso, più lungo e più largo del modello precedente, il Tucson, che lei ricorda, con una gamma completa di nuovi colori e soprattutto con un ampio bagagliaio che è il record della categoria, 591 litri, meglio della migliore concorrenza, con sedili 60-40 sdoppiabili per arrivare a un vano di carico gigantesco da oltre 1100 litri. Vogliamo ricordare anche la motorizzazione disponibile? Lo stiamo lanciando con un 2000 benzina da 163 cavalli e in versione 2.4 VD e soprattutto con i motori diesel low power da 136 cavalli o high power da 184 cavalli, al vertice della categoria anche in tema di emissioni, che sono molto contenute. È davvero il prodotto della svolta per la Hyundai Motor Company Italy. Ci diceva all'inizio che è un SUV che però è adatto e si può adattare anche a chi cerca il classico fuoristrada. Naturalmente, perché gli angoli di attacco e di rampa sono eccellenti, 24 o 27 gradi, poi il 4WD ha il sistema torque on demand, ovvero fino sotto i 40 km l'ora entrano in azione le quattro ruote motrici per superare con successo anche i tratti più difficoltosi, siano esse strade innevate come in occasione del lancio che abbiamo effettuato, oppure zone più disastrate. Sabatini, per concludere, settimana prossima inizia il Salone di Ginevra, ne abbiamo parlato in apertura di questo appuntamento con Strade e Motori, anche Hyundai sarà presente. Quali altre novità ci presenterà Hyundai in questo inizio di 2010? Innanzitutto la iFlow, una nuova concezione di berlina del segmento D, estremamente aerodinamica e con emissioni e consumi ridottissimi, parliamo di 3 litri per 100 km, una concept car a cui si affiancano però le versioni Blue Drive, ovvero quelle economicamente e ecologicamente compatibili, della i10, 20, 30, tutte con emissioni sotto i 100 grammi al chilometro. Bene, allora noi ringraziamo Carlo Sabatini, Public Relations Manager di Hyundai Italia, e appuntamento alle prossime occasioni. Buon lavoro, Sabatini. Grazie e buon lavoro a voi. Gentile redazione, vi sottopongo una questione che a mio avviso meriterebbe un approfondimento. Ho ricevuto 2 contravvenzioni per eccesso di velocità rilevate nello stesso giorno a distanza di circa 2 minuti una dall'altra ed emesse da 2 sezioni della polizia stradale diverse, una di Genova e l'altra di Imperia. Rilevo dai verbali che i 2 apparati automatici, i Tutor SICV, che hanno rilevato le infrazioni, si trovano sull'autostrada A26 a circa 3 km di distanza l'uno dall'altro. Inizialmente non avevo fatto caso alla contemporaneità, in quanto avevo percorso più volte quel tratto di autostrada nel periodo in questione, ma in occasione del secondo pagamento mi sono accorto del fatto. Ho chiamato la sezione di polizia stradale di Imperia, che oltre a confermarmi il fatto che il mio ricorso è irricevibile, perché sono passati più di 60 giorni, mi dice anche che su quel tratto di strada ci sono più apparati, mi sembra di aver capito 7, e che siamo in tanti nella stessa situazione, cioè con più contestazioni consecutive. Mi vengono contestate velocità di 120,27 km orari e 135,96 km orari, quindi, per quella che è la mia esperienza, posso immaginare che siamo davvero in tanti in questa situazione. Grazie per la cortese attenzione, Mario. Questa dunque è la lettera che ci è arrivata al nostro indirizzo email stradeemotori@radio24.it. Un quesito molto interessante e che insomma racconta di episodi che chissà quante persone, quanti automobilisti sono accaduti nel recente passato. Dicevamo, quesito molto interessante che noi giriamo volentieri al nostro esperto Maurizio Caprino. Buongiorno, buona domenica Maurizio, grazie per essere con noi. Grazie a voi, buona domenica a tutti. Maurizio, che seguiamo abitualmente anche sul suo blog, sul nostro sito Motori 24, partendo dal Sole 24 Ore. Allora Maurizio, hai sentito cosa ci chiede il nostro, cosa ti chiede il nostro ascoltatore? Insomma, il problema è quello del tutor fondamentalmente. Cosa vogliamo rispondergli? Le rispondiamo innanzitutto che è tutto regolare. Perché questo? Perché il lettore, l'ascoltatore è capitato in un tratto dove i portali tutor sono molto fitti, sono a poca distanza l'uno dall'altro, quindi a lui è parso di essere stato cronometrato su due sezioni contigue, cosa che effettivamente non si può fare. Invece io mi sono fatto due calcoli in base ai verbali che il lettore ci ha trasmesso e devo dire che c'è un tratto scoperto, diciamo, fra le due sezioni sulle quali lui è stato cronometrato c'è un chilometro e rotti di buco, quindi questo chilometro e rotti di buco consente giuridicamente di accreditare la tesi che queste siano due infrazioni ben distinte e questo basta per rendere validi entrambi i verbali. Normalmente invece che cosa si fa, cosa succede? È difficile prendere multe così in così stretta sequenza perché anche su un tratto lungo coperto dal tutor, penso che ne so alla Roma-Napoli, alla Milano-Bologna, alla Pescara-Foggia, non sono mai attivi i portali su due sezioni consecutive. Questo lo prevede proprio il decreto di omologazione del tutor per evitare che un trasgressore possa dire che si tratta della medesima infrazione. Quindi è stato proprio sostanzialmente vietato in modo esplicito quest'uso. Ovviamente però in questo caso l'ascoltatore è stato tratto in inganno dal fatto che sono portali molto fitti. Volevo anche ricordare a tutti quanti che questo caso può non essere isolato e non solo dove i portali sono fitti, nel senso che i tutor possono essere usati non solo per misurare la velocità media ma anche quella istantanea. Allora è possibile che vengano attivati due portali consecutivi, quindi vicini o abbastanza vicini, ma soltanto in modalità istantanea, quindi a quel punto è come se fossero due normali autovelox posti sulla stessa strada a una certa distanza l'uno dall'altro e ricadiamo quindi nella stessa fattispecie di due infrazioni distinte che come tali devono essere pagate. Devo anche dire che il tutor si usa spesso in modalità istantanea quando ci sono o cantieri o maltempo che fanno sì che i limiti di velocità siano più bassi, allora lì non potendosi usare per tutta la tratta, in quanto ovviamente il limite di velocità in quel caso cambia e quindi non si può avere un riferimento certo per calcolare l'eccesso di velocità sulla media, allora lo si usa appunto in modalità puntuale. Allora grazie a Maurizio Caprino, il nostro esperto in questioni di multe e contravvenzioni, ma non solo. Maurizio, torneremo a disturbarti quanto prima, anche perché se i nostri ascoltatori o i tuoi lettori hanno voglia di partecipare al nostro dibattito, porti quindi degli interrogativi, siamo qui a disposizione. Grazie Maurizio, buona domenica, presto. E siamo arrivati alla conclusione di questo appuntamento con Strade e Motori. Vi ricordo che sul nostro sito radio24.it potete trovare tutte le nostre trasmissioni, approfondire gli argomenti che tocchiamo ogni settimana. Se avete voglia di scriverci, fatelo pure all'indirizzo stradeemotori@radio24.it. Grazie per aver viaggiato con noi, grazie a Paolo Corleoni per averci guidato in regia. A voi tutti l'augurio di un buon proseguimento in compagnia di Radio 24.